questa puntata di Nessun Luogo Lontano è stata confezionata con l'aiuto di Antonio Talia ed Elisa Pancaldi, che fra l'altro è impegnatissima in questo momento a limare l'ultimissima intervista che abbiamo registrato al volo pochi minuti fa prima di andare in onda. Vi ricordo i social, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, lì potete gustarvi anche la diretta Facebook, Twitter Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24, e vi ricordo ancora l'SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Abbiamo deciso di accendere i riflettori su una crisi che ormai perdura da troppo tempo. La comunità internazionale, compresi gli inviati ONU, ma anche l'inviato italiano recentemente nel paese, non sembrano riuscire a dissipare. Di ben altri problemi si occupa Claire Manera di MSF, che è nel nord del paese, come avete sentito, fatica molto spesso a raggiungere i suoi pazienti. Sentite le difficoltà che incontra per semplicemente muoversi in un paese martoriato dalla guerra. Sì, noi ci stiamo impegnando per raggiungere anche aree più lontane in cui si è estesa l'epidemia. È impegnativo perché ci vogliono ore per raggiungere queste aree. Proprio qualche giorno fa siamo rimasti bloccati letteralmente in un fiume a bordo di un Land Cruiser mentre cercavamo di raggiungere uno di questi villaggi contagiati. Cerchiamo di raggiungere le persone anche per portare dell'acqua, che è importante per chi è affetto dal colera. È sorprendente come un semplice trattamento come la reidratazione attraverso zucchero e sali minerali o, nei casi peggiori, con un'idratazione attraverso un'iniezione endovenosa in una struttura ospedaliera, si possa guarire una persona. Se si riesce a raggiungere il malato abbastanza in tempo, una semplice reidratazione può salvare la vita a molte persone. La voce che state ascoltando è quella di Claire Manera, che è responsabile del progetto di Medici Senza Frontiere in Yemen. Lei in particolare ad Amra, una città del nord, e come state sentendo dalle sue parole, alle difficoltà della cura di un'epidemia di colera senza precedenti si sommano anche difficoltà evidenti logistiche, perché la guerra, che dura ormai da due lunghi anni, è una guerra combattuta davvero senza quartiere. Chiediamo allora a Claire Manera di darci un'indicazione sui numeri, su quante sono le persone affette da questa colossale epidemia. Sentite. A metà di luglio si parlava di circa 350.000 persone contagiate e si prevede che questa cifra raddoppi entro la fine dell'anno. Speriamo che questo non accada, ma la realtà è che sta arrivando il periodo della pioggia e l'arrivo della pioggia fa sì che il colera possa espandersi ancora di più. Le persone non hanno possibilità di bere acqua da fonti pulite. Non esiste un sistema per la raccolta di rifiuti o condotte fognarie, e quando arriva la pioggia la situazione diventa drammatica. Se non è propriamente il suo campo, ho chiesto a Claire Manera di Medici Senza Frontiere qual è la fotografia, la situazione generale che si è trovata a vivere in questi ultimi quattro mesi, il contesto più generale in cui si trova a operare. Sentite. Quello che ho visto in questi mesi è un conflitto che continua senza sosta. Anche dove mi trovo io con il mio progetto, ad Amran, nonostante sia un posto abbastanza tranquillo, nelle ultime settimane ci sono stati problemi e rivolte. Si distruggono gli edifici governativi e questo include anche i centri di assistenza. Si vedono bambini morire di colera e questa è la cosa peggiore di tutte, perché non c'entrano con la guerra, ma sono quelli che soffrono di più. Lo Yemen è uno stato che soffre e che prima del colera ha vissuto la povertà, la malnutrizione e la malaria. E questo non è giusto. Now it's just a final blow and it's not fair.

possibili dei rapporti tesissimi anche fra blocchi molto più grandi di nazioni. E questa situazione a livello diplomatico internazionale, a livello di Nazioni Unite, non si vuole che si ripeta sulla questione yemenita. La questione yemenita naturalmente poi rimane quella di un paese che interessa moltissimo a livello regionale a tutte le potenze impegnate in quell'area. Pensiamo anche all'Egitto, dove c'è l'interesse a tenere libera l'area che porta al canale di Suez, pensiamo ai paesi del Corno d'Africa. Certamente rispetto all'Europa è una realtà più defilata, non è una realtà così vicina come la Siria, lo si vede anche dal fatto che i migranti dallo Yemen verso l'Europa sono pochi, però questa zona in qualche modo si ritiene che debba essere messa e risistemata in sicurezza proprio dagli attori che combattono in essa, e quindi anche qui l'intervento degli Stati Uniti per esempio da una parte o piuttosto della Russia dall'altra è molto più defilato rispetto alla situazione siriana, rispetto a quello che accade anche in Iraq, e questa è anche una delle ragioni per cui se ne parla poco, è una delle ragioni per cui di fatto chi sta osservando questi anni di guerra intensamente non vuole, perché non vuole che i giornalisti si mettano in naso. Grazie mille. Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance, esperta di Yemen, docente alla Scuola di Giornalismo della Cattolica, ricordo la sua sposa yemenita. Grazie mille Laura per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Laura Silvia Battaglia nell'ultima sua risposta sottolineava giustamente quanto sia diventato inaccessibile per i giornalisti il teatro yemenita. Vi segnalo su Le Monde un eccezionale reportage fatto da una coppia di giornalisti francesi che è riuscita a entrare nel paese per alcune settimane a documentare quello che sta accadendo. In passato era già accaduto invece che troupe o team di giornalisti stranieri non venisse concesso loro nemmeno di uscire dall'aeroporto di Sana'a, e quindi appunto questo va a corroborare il pensiero di Laura Silvia Battaglia sulla difficoltà di raccontare questa crisi. Nel raccontare lo Yemen abbiamo citato più e più volte l'Arabia Saudita, allora parliamo di questo. Allora, 349-238-6666 per i vostri commenti. Ringrazio un ascoltatore, Claudio, che mi dà del giovanotto, cioè un complimento, ringrazio, in realtà diversamente giovanotto, se devo dirla, e che ricorda che la guerriglia è endemica. Se mi interessa, mi dice, le invio un testo illustrato di foto su Yemen contro l'Egitto agli anni 60. Non mi sembra di aver detto nulla che di contrario a questo, ci stavamo focalizzando sui recenti avvenimenti che riguardano lo Yemen. Certo, sarebbe interessante fare una puntata storica su questo paese, perché no? Claudio mi ha dato un'idea, adesso ci lavoriamo. Allora, prima però di parlare dell'Arabia Saudita, che è uno dei grandi attori regionali che si muovono in Yemen e non solo, vi propongo una piccola fotografia di questo importante stato. L'Arabia Saudita è la culla della civiltà islamica. Qui è nato il profeta Maometto e sul suo suolo sorgono due delle città sacre dell'Islam, la Mecca e Medina. L'impronta islamica è ben presente ancora oggi, non solo nell'ambito religioso, ma anche in quello giuridico, con la Sharia. L'Arabia è una monarchia assoluta ed è costituita da 13 province con capitale Riyadh, con una popolazione totale di circa 32 milioni di persone. La fonte economica principale è l'estrazione del petrolio. Infatti, l'Arabia è lo stato con la percentuale maggiore di presenza di giacimenti di petrolio al mondo, con circa il 26% mondiale di giacimenti, e detiene un ruolo principale all'interno dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Altre risorse economiche sono il gas, l'oro e il rame. I suoi principali alleati sono Egitto, Emirati Arabi e Bahrain, mentre acerrimi nemici Iran e Qatar.

all'Iran, ma piuttosto all'Iraq, ovvero i figli notabili delle grandi famiglie sciite del Golfo di solito non vanno a studiare a Qom, grande santuario e sede delle scuole dello sciismo in Iran, ma piuttosto vanno a Najaf e Kerbala in Iraq, dove è presente uno sciismo più quietista rispetto a quello, diciamo, rivoluzionario iraniano. Quindi c'è chi fra gli analisti, per esempio, dice l'Arabia Saudita, in un certo senso, così facendo, aumenta la presa dell'Iran su una comunità in un momento in cui tutti sappiamo le tensioni fra Arabia Saudita e Iran in tutta la regione sono molto molto forti, si pensi allo Yemen, alla Siria, al fatto che in tutti i conflitti regionali sono su due posizioni diverse. Era Rolla Scolari, giornalista della Stampa e direttrice della Fondazione Oasis. Adesso l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Tra poco cambieremo totalmente argomento e anche continente, non prima di aver fatto un paio di sottolineature. La prima, molto interessante, se avete seguito l'intervento di Rolla Scolari, giornalista della Stampa e direttrice di Fondazione Oasis, sottolineava un punto importante, cioè il fatto di aver demonizzato l'Iran come male assoluto nei confronti del mondo sunnita e dell'Arabia Saudita ha fatto sì che in qualche modo scalzasse come partner privilegiato l'Iraq nei confronti di quella piccola minoranza sciita nell'est del paese. Quasi una profezia che si autoavvera, no? alla fine continuando a dire il male assoluto è l'Iran, il male assoluto è l'Iran, a quel punto come dire, dai un'importanza e un'autorevolezza all'interlocutore anche alla tua dissidenza interna. Questa è una possibile affascinante lettura di quello che sta accadendo. Poi mi ricollego invece a un sms che ci ha mandato Tonio al 349-238-6666, che chiede, pensando a quello che è accaduto e sta accadendo in Venezuela, come se l'è cavata l'Arabia Saudita con il calo del prezzo del petrolio. Domanda interessantissima, forse ci vorrebbe un'intera puntata in Nessun Luogo, peraltro non è esattamente il mio tema perché qua andiamo sull'economia e sulla finanza. E il paragone mi sembra un pochettino azzardato. Una cosa è certa, possiamo mettere un paio di punti fissi. Primo, c'è una gestione da parte dei sauditi diversa e più strutturata rispetto a quella di Nicolás Maduro in Venezuela. Secondo, se è vero che quella zona dove c'è la minoranza sciita e anche la zona con la presenza di giacimenti petroliferi, è vero che l'intervento delle forze speciali saudite con questo maglio pesante sulla dissidenza intende anche, come dire, tutelare gli interessi economici di quella zona, ma ci torneremo perché mi sembra una domanda interessante e intrigante. Adesso Pietro Lacorte, cambiamo pagina e andiamo tra i vicoli delle favelas di Rio de Janeiro. Ce l'ho, capitano. Non so chi mi faceva più incazzare, se i trafficanti imbottiti di armi o l'incompetenza della polizia convenzionale. Come ti va, Pompeo? E a te come va? Hai portato i pezzi? Sì. All'epoca la polizia contava 30.000 uomini, un numero più che sufficiente per chiudere col traffico di droga. Ma erano addestrati uno schifo e guadagnavano uno schifo. Da gente così non puoi aspettarti che gliene freghi più di tanto. Non so se ve lo ricordate, era la voce del capitano Nascimento, che era uno degli attori protagonisti di Tropa d'Elite, un film del 2007 diretto da José Padilla, che raccontava in maniera molto cruda ma anche affascinante le dinamiche viziose e anche perverse dei vari traffici all'interno delle favelas a Rio de Janeiro. E quella realtà così chirurgicamente raccontata dal regista brasiliano non è affatto distante dalla verità. Padilla raccontava anche le implicazioni della polizia ordinaria con i trafficanti di armi e con i trafficanti di droga. Perché vi riporto con questo piccolo marcor cinematografico a Rio de Janeiro? Perché decisione di pochi giorni fa da parte del governo brasiliano di inviare 10.000 membri di forze armate, poi il prossimo ospite vi spiegherà esattamente anche di quale estrazione, appunto, a Rio de Janeiro. Perché? Perché vi è una nuova ondata di crimine che Rio de Janeiro deve andare a affrontare. Non è certamente un tema nuovo, le Olimpiadi del 2016 non hanno certamente risolto il problema, e allora ci siamo affidati a un super esperto di violenza in ambito urbano e di violenza in Brasile, Robert Muga, che dirige l'Igarapé Institute, che è un think tank specializzato proprio in analisi di violenza e conflittualità urbana. Robert Muga, a lui abbiamo chiesto cosa sta accadendo e quali sono le ragioni di questo invio di una così massiccia presenza militare nei quartieri più difficili di Rio de Janeiro. Robert Muga. Quello che sta succedendo è che sono stati dispiegati circa 10.000 uomini tra riservisti, polizia di Rio de Janeiro e la polizia federale. Tutto questo in un periodo di aumento delle violenze nella città di Rio, che conta 6 milioni di abitanti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a un aumento degli omicidi, delle aggressioni e soprattutto degli attacchi ai camion che trasportano generi di ogni tipo. E tutto questo sta spaventando sempre di più la classe media. Così il governatore e il sindaco di Rio de Janeiro hanno fatto appello alle autorità nazionali e il capo della polizia, il ministro della giustizia, il ministro degli interni e lo stesso presidente hanno deciso di rispondere con l'invio di questa massiccia forza militare in città. Questa situazione sul terreno strettamente locale, pure una città molto molto grande, certo 6 milioni di abitanti, ma se poi aggiungiamo tutti i conglomerati attorno arriviamo a oltre 12 milioni di abitanti, una importantissima città del Brasile. Ebbene, nelle ultime ore Michel Temer, il presidente brasiliano, ha scampato per un soffio la possibile impeachment. Il Senato con pochi voti gliel'ha fatta passare liscia. C'era un problema di corruzione, qua verrebbe da sorridere se non fosse che il problema è gravissimo. Il Brasile ormai da anni affronta questo problema di una leadership politica che viene periodicamente accusata di corruzione e altri reati finanziari, e questo sta creando un'instabilità politica che Robert Muga definisce la tempesta perfetta. Sentite, alla domanda c'è qualche relazione con le recenti e controverse dinamiche politiche brasiliane rispetto all'invio dei militari, sentite cosa dice lo studioso. Quella che è scoppiata in Brasile e a Rio in particolare in quest'ultimo periodo è la tempesta perfetta. Prima di tutto è in corso una crisi politica che sta ormai scuotendo il paese da un paio d'anni. Uno scandalo a base di corruzione collegato al colosso nazionale del petrolio che ha coinvolto circa il 50% della classe politica a livello nazionale e locale. In secondo luogo è scoppiata una crisi economica, perché il Brasile a breve entrerà nel terzo anno di recessione, dovuta a un'economia largamente dipendente dall'esportazione di petrolio e gas, che deve fare i conti con il crollo dei prezzi e anche con il clima post-olimpico, che si è tradotto in un crollo dell'occupazione. Infine, è in corso anche una crisi degli equilibri interni al mondo criminale. Le due principali gang attive nel traffico di droga, la PCC e la CV, nel 2016 hanno infranto una tregua che durava da quasi 50 anni. Così la somma di questi tre fattori, il mega scandalo politico-finanziario, la crisi economica e gli sconvolgimenti nella malavita, sta generando un problema molto grave. Era la voce di Robert Muga, cofondatore dell'Igarapé Institute di base a Rio de Janeiro. È un think tank, un centro di ricerca eccezionalmente efficace nel spiegare le dinamiche criminali in ambito urbano, in particolare evidentemente su Rio de Janeiro c'è pane per i loro denti. Avete sentito Robert Muga che mette insieme una serie di fattori, una combinazione di fattori, lui la chiama la tempesta perfetta. Questa tempesta perfetta ha generato le condizioni per questo massiccio, ennesimo intervento militare, ma siamo sicuri che il braccio forte, cioè la forza bruta, sia la ricetta giusta per combattere la violenza nelle favelas e nella città di Rio de Janeiro? Sentite ancora Robert Muga. È in corso un forte dibattito sul ruolo dell'esercito. Al momento in Brasile l'esercito è una delle istituzioni più rispettate, quella che ispira più fiducia, seguito subito dopo dalla Chiesa, mentre i partiti politici sono in fondo alla classifica, anche se non si tratta certo di una sorpresa. Quindi c'è molto apprezzamento da parte della classe media per le operazioni militari interne, che peraltro sono diventate un'abitudine, perché dall'inizio degli anni 90 ne sono susseguite circa un migliaio. Inoltre, a confronto con gli 85.000 soldati di pattuglia per le strade durante le Olimpiadi dello scorso anno, i 10.000 militari della missione attuale sembrano relativamente pochi. Due elementi sono cambiati. L'esercito dice che questa sarà una missione relativamente breve, che si concluderà il prossimo anno dopo le elezioni. Inoltre, i militari hanno dichiarato che non occuperanno alcuna zona, un elemento che veniva visto con preoccupazione. La mia opinione è che siamo di fronte a una vera sfida. Assisteremo a un calo di certi reati durante la missione con un nuovo, notevole aumento della violenza dopo che i militari se ne saranno andati. Allo stesso tempo, la polizia ordinaria verrà privata di una parte considerevoli dei suoi compiti. Quindi penso che gli effetti saranno molto ambivalenti. Invece con Samba di Orfeo ho cercato un po' di, come dire, edulcorare le fosche tinte che ci ha restituito Robert Muga rispetto alla situazione a Rio de Janeiro. Se siamo partiti con Tropa d'Elite, è una musica un po' tamarra, ma mi perdonerete. Invece questa Samba di Orfeo è, non so se l'avete visto, è un film bellissimo, Atmosfera Elegia, che è la trasposizione di una pièce teatrale di Vinicio de Moraes, è il mito di Orfeo, lui dice, in salsa carioca. Allora adesso lasciamo le strade di Rio de Janeiro, andiamo su quelle italiane, vediamo com'è il traffico e poi ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, vi aspetto. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati, questa è l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Gli sms al 349-238-6666, un ascoltatore mi accusa di fare disinformazione, puntualizza che servivano 2/3 dei voti perché la mozione contro il presidente brasiliano passasse, non sono arrivati al 40%. Ho detto che l'ha scampata per un soffio, sì, forse non è un soffio, l'ha scampata allora ampiamente, mettiamola così. Lungi da me qualsiasi volontà o velleità di fare disinformazione sulla situazione brasiliana, vorrei tranquillizzarvi in questo senso. Vi ricordo che potete commentare e fare critiche anche sulla pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. Come vi vado ripetendo da circa una settimana, leggo quasi esclusivamente critiche, domande e commenti al veleno, perché gli apprezzamenti ci sono, vi ringrazio, però preferisco appunto concentrarmi sui commenti e sulle critiche. Allora adesso cambiamo pagina e per la gioia di Antonio Taglia, che ho fatto spogliare dei suoi vestiti di autore, lo faccio accomodare qui di fronte a me, dobbiamo cambiare totalmente tema, voltiamo pagina e andiamo in Bhutan. Allora, Antonio Talia, giornalista freelance e autore con me di questo programma. Buongiorno Antonio, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Fa un po' sorridere detta così, però insomma. Antonio, la nostra attenzione questa mattina è stata catalizzata da un lungo articolo che è apparso sul Wall Street Journal. In realtà tu me ne avevi parlato già qualche giorno fa. C'è un nuovo braccio di ferro che si colloca in una scia ormai decennale di prove di forza tra Cina e India. È intrigante questa nuova disputa perché si svolge a oltre 4.000 metri di altezza in un paese, il Bhutan, che è quel paese che forse i più attenti ricorderanno è quello che vince sempre e va al primo posto nella classifica dei paesi più felici del mondo. Allora, vediamo se questa felicità verrà intaccata da questa contesa fra Cina e India. Antonio, raccontaci un attimo cosa sta accadendo. Sì, quello che sta succedendo è che a 4.000 metri d'altezza, in questo regno himalayano che è il Bhutan, che come tu raccontavi appunto sta sistematicamente ai vertici delle classifiche della felicità mondiale, è successo che a giugno sono arrivati in una zona disputata al confine tra il Bhutan e la Cina, sono arrivati degli operai e dei bulldozer cinesi e hanno cominciato a costruire una strada. Ora, il Bhutan, che lo ricordiamo è un regno di circa 700.000 persone, è una monarchia anche molto glamour a modo suo. Ricordiamo che c'è questa coppia reale che qualcuno ha definito The Real Royal Family, re Jingme e la regina Jetsun. Invito gli ascoltatori a andare a cercare su Google The Bhutan Royal Family per avere idea di quanto loro siano glam. Comunque, il Bhutan ha cercato ovviamente di protestare contro la costruzione di questa strada cinese e a un certo punto in questa controversia si è inserita l'India. L'India, che ha un legame molto, molto forte con il Bhutan, laddove invece il Bhutan non ha nessun rapporto diplomatico con la Cina. Sono arrivati è arrivata una guarnigione di soldati indiani che ha spianato la strada che i cinesi stavano andando a costruire. E insomma, stando a 4.000 metri, la palla di neve è diventata un pochino una valanga. Sono arrivate altre guarnigioni ed è da circa un mese che insomma si stanno fronteggiando cinesi e indiani, peraltro in un territorio contestato che formalmente sarebbe un territorio di un terzo stato. Ed è la prima volta, sebbene appunto come ricordavi Cina e India si siano fronteggiate diverse volte e ci sia stata anche una guerra dimenticata fra Cina e India nel 62, è la prima volta che si fronteggiano sul territorio di un terzo stato. Qual è l'importanza della costruzione di questa arteria proprio in quella zona lì? Ci sono interessi economici in ballo o che altro? Allora, ti racconto prima l'importanza e poi un retroscena. L'importanza è che è di tipo in qualche modo strategico commerciale. Si trova in una zona che gli indiani chiamano il collo della gallina. Intanto è un confine contestato. Cina e India hanno due confini contestati, uno in questa regione che viene chiamata Arunachal Pradesh e un altro in un'altra regione che si chiama Aksai Chin. Ma questo confine contestato, nel quale appunto si incontrano Cina, India e Bhutan, è importante perché è un collo di gallina, cioè è un passaggio strettissimo che collega la parte più ampia dell'India alla parte diciamo più orientale dell'India e che quindi se venisse bloccata in qualche modo da un qualche tipo di tensione potrebbe creare un po' dei problemi a tutta la zona. In secondo luogo l'India è sempre più preoccupata dalle manovre della Cina. Qualche giorno fa abbiamo sentito il professor Steve Tsang dell'Università di Londra, lui è direttore appunto della facoltà di studi cinesi dell'Università di Londra, e lui ricordava che in qualche modo sono più gli indiani a essere preoccupati dei cinesi. Se uno legge la stampa indiana si è parla ricorrente. Di Cina dovunque, cioè è ricorrente questo timore della Cina, laddove invece nella stampa cinese non si parla così tanto di India. Secondo gli indiani, secondo gli strateghi indiani, la Cina sta cercando un pochino di avviluppare l'India in un attraverso varie iniziative che starebbero restringendo la sua area di influenza, sia a livello marittimo e sia a livello territoriale. Ci fu un episodio qualche anno fa che è stato molto divertente e che riguardava una situazione abbastanza simile a quella del Bhutan, che è quella del Nepal. I diplomatici indiani a un certo punto tirarono fuori queste registrazioni, che non si è mai capito se fossero state modificate oppure no, che erano le registrazioni di agenti o diplomatici cinesi che avrebbero pagato dei parlamentari del Nepal per passare al partito maoista e quindi fare gli interessi della Cina. Allora, in qualche modo gli indiani si sentono accerchiati in quelle che sono delle regioni, delle aree che sono tradizionalmente loro area di interesse, quindi appunto il Bhutan, il Nepal, anche lo Sri Lanka e altri, e in qualche modo reagiscono. C'è però un retroscena su questa storia che abbiamo raccontato. Allora, sembra che qualche anno fa il Bhutan, che ufficialmente non aveva rapporti diplomatici con la Cina, si fosse messo d'accordo per cedere una parte di questa zona contestata, che è quella dove oggi si stanno fronteggiando India e Cina. E questo accordo sottobanco avrebbe fatto infuriare gli indiani, e quindi il Bhutan, con il nuovo re molto glamour con il regime, invece sarebbe tornato sui suoi passi, si sarebbe riavvicinato all'India, e la situazione di queste settimane potrebbe essere anche un po' un frutto di questo mancato accordo sottobanco di qualche anno fa. È un grande gioco che continua da parecchio. Grazie mille Antonio Talia per essere stato in onda con noi. Fra l'altro un ascoltatore mi sollecita, ma poi di conseguenza anche a te, sull'espansionismo cinese nel mar cinese meridionale. Ci ha scritto via WhatsApp, quindi tieniti caldo perché c'è un altro tema cinese che ti riguarda. Siamo quasi in chiusura, però domani c'è un appuntamento elettorale molto molto importante e faccio un piccolo accenno su questo. Mina akobe kenimisa kele manyinde dusu manyinde o mansaba neson sumaya langa dusu mara. Domani l'appuntamento è per le elezioni presidenziali in Ruanda. Ne ho fatto cenno qualche giorno fa in quella puntata dedicata un po' alla zona dei Grandi Laghi. Si vota per quello che viene annunciato come un grande plebiscito per il presidente Paul Kagame, e volevo farvi un invito: andare a cercare un po', se avete Instagram ma anche Facebook, sui social, andatevi a cercare un po' di lavori fotografici su tutti, Jérôme Delay per esempio di AFP, ma c'è anche Marco Longare, che è un altro italiano della grossa agenzia, che sono a Kigali da alcuni giorni e stanno fotografando la partecipazione popolare a questo grande, sulla carta, esercizio di democrazia. È interessante perché l'iconografia restituita è assolutamente di festa, di gioia, di grande partecipazione, mentre alcuni network, come su tutti Al Jazeera, denunciano un imbavagliamento dell'opposizione che ormai dura da parecchi anni. Quindi sarà molto molto interessante andare a seguire un appuntamento elettorale che, ripeto, sulla superficie è tutto perfetto, è tutto, come dire, molto gioioso, molto colorato e molto felice, in realtà nasconde dinamiche ancora profonde e irrisolte. Domani dedicheremo gran parte del programma proprio a questo appuntamento elettorale. Pietro Lacorte, ci siamo? Sì, titoli di coda. Con i quali ringrazio Elisa Pancaldi, che ha confezionato assieme a Antonio Talia, che oggi era anche ospite, anche questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, i suoni e i ritmi dettati dalle manine di Pietro Lacorte. Voi per essere stati all'ascolto ancora una volta. Vi ricordo che domani c'è l'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano, però se vi siete persa questa, c'è stasera la replica alle 20, domani alle 6 del mattino ancora, e poi c'è il podcast per un'altra sana scorpacciata di esteri. Intanto vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che Nessun Luogo è Lontano.